Radio 24 Reportage. Il cinema italiano festeggia in Portogallo, di Laura Bettini. Estamos aqui no cinema de São Jorge, onde correu o cinema italiano. Ah, eu gostei do filme, achei divertido. Está muito bem feito. Tudo, os atores, a história, aquela coisa toda. Adorei o filme. Sono stati più di 16.000 gli spettatori di Otto e Mezzo, festa do cinema italiano in Portogallo. Partito in marzo da Lisbona per attraversare nei mesi successivi altre 6 città portoghesi, da Oporto a Évora, che è stata l'ultima sul continente europeo. Perché grazie ai sottotitoli in portoghese, la festa a giugno continuerà in Mozambico, a Maputo, e più avanti in Angola e magari Brasile. È alla sua 8ª edizione questa festa del cinema italiano, un'iniziativa ideata dall'associazione Il Sorpasso, da cui proviene il direttore artistico della manifestazione Stefano Savio, e realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e l'Ambasciata Italiana in Portogallo. Ogni paese ha la sua chiave, dice Renato Varriale, l'ambasciatore italiano. Il cinema è quella per il cuore dei portoghesi. Sono convintissimo di questo. La chiave di penetrazione in un paese varia da paese a paese. E nel caso della penetrazione culturale, il Portogallo ha delle caratteristiche che lo fanno somigliare alla Spagna, ma non completamente. Per cui è necessario lanciare un messaggio leggermente diverso. Il portoghese forse è un cliché, ma io ci credo abbastanza, è molto riservato. Possibilmente meno espansivo dello spagnolo, ma è molto riflessivo ed diventa un grande amico quando si riesce a conquistarne la fiducia. Buona parte dei portoghesi ha visitato le città d'arte, è stato sulle belle coste italiane, ha visitato grandi eventi culturali o comunque commerciali, eccetera. Però non si può dire che il portoghese conosca veramente l'Italia, con un'eccezione, quella del cinema. C'è una passione qui per il cinema italiano, che ho subito riscontrato, che si concentrava ovviamente sulla grande fase del cinema italiano, l'epoca del neorealismo, anni 50, anni 60, con qualche puntata sugli autori più moderni. E il grande merito del Festival del Cinema organizzato dall'associazione il Sorpasso era esattamente quello di combinare il nuovo con l'antico, cioè sfruttando la passione e la conoscenza che i portoghesi avevano del cinema nostro più datato, li hanno portati, l'associazione li ha portati gradualmente al cinema più moderno, contemporaneo, con enormi risultati. Le sale sono sempre stracolme. Ti do 10 secondi di vantaggio. Che ti serve? Un costume da supereroe. Forse una. Nel programma si spazia davvero da Sergio Leone all'anteprima internazionale dell'ultimo Salvatores, Il ragazzo invisibile, e Anime nere di Francesco Munzi, film rivelazione della scorsa mostra del cinema di Venezia, vincitore di questa edizione della Festa del Cinema a Lisbona. Soffitta, ragazzi! E poi la bimba, Topo Gigio, per intrattenere i più piccoli, spiega Clelia Bettini dell'associazione Il Sorpasso. Durante questa festa del cinema si lavora sulla cultura italiana in senso lato. In particolare quest'anno ci siamo impegnati sul fronte dell'infanzia, perché crediamo che le sessioni infantili e in generale per ragazzi siano importantissimo dal punto di vista educativo, perché i ragazzi e i bambini sono più disposti a non farsi problemi dinanzi alla barriera linguistica, che è quello che blocca spesse volte l'adulto, e quindi utilizzare grandi personaggi del cinema, comunque dell'animazione per l'infanzia, come Pimpa, Calimero, Topo Gigio, la linea, come il Pinocchio di Comencini, che sono stati quelli con cui abbiamo lavorato quest'anno, ti permette di far entrare in contatto il pubblico più giovane con la lingua italiana, con tutta anche una serie di aspetti culturali che sono interessanti. E abbiamo visto che effettivamente la barriera linguistica è inesistente, cioè i bambini non gli interessa affatto, seguono benissimo, si appassionano, si divertono e tutte le attività che vengono poi svolte dopo funzionano molto bene. Farò la pittrice. Un ottimo veicolo per farci conoscere, conferma Silvana Urzini, responsabile degli eventi culturali presso l'Istituto di Cultura Italiano a Lisbona. L'Istituto Italiano in pratica appoggia sostenendo alcune spese. Politica dell'Istituto Italiano di Cultura non è quella di dare appunto un contributo finanziario alle istituzioni portoghesi o alle organizzazioni di eventi esterni come questo caso. Quindi il nostro appoggio consiste nel sostenere direttamente alcune spese legate alle proiezioni dei film. Oltre alla la parte cinematografica ci sono anche però degli appuntamenti diversi, c'è la cucina, c'è... Sì, questa è la novità appunto della Festa del Cinema Italiano che negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, ha diciamo diversificato un poco anche la programmazione, quindi non solo proiezioni ma anche workshop di cucina, di moda, di arte, di lingua, quindi un primo approccio alla lingua italiana. Questo diciamo è molto interessante perché riguarda l'Istituto Italiano in prima persona, dal momento che noi abbiamo corsi di lingua italiana, quindi incominciare a diffondere anche i nostri corsi ci viene bene. Ecco, l'ultima cosa riguarda proprio chi frequenta l'Istituto Italiano di Cultura, chi si iscrive ai corsi di italiano qui? Allora, i nostri corsi sono frequentati da portoghesi di tutte le età, abbiamo da bambini, anche se non sono diretti, i nostri corsi per i bambini non sono diretti molto ai portoghesi, ma ai bambini luso italiani o italo-portoghesi, come vogliamo intendere. E sono degli incontri settimanali, non sostituiscono la scuola ovviamente italiana, che purtroppo in Portogallo non esiste, ma si tratta soltanto di incontri tra i bambini italiani per rimanere legati ancora alla cultura italiana. E poi abbiamo invece i corsi che sono per adulti dai 16 anni, partiamo dai 16 anni fino a anche 90 e oltre. E anche nel nostro caso abbiamo non solo corsi di lingua. Persone che lavorano con l'Italia, persone che hanno curiosità per la cultura italiana. È vario, c'è una parte appunto di nostri iscritti che sono soprattutto i più giovani ovviamente, che lavorano con l'Italia o sperano di lavorare ecco con l'Italia o andar via oppure lavorare qui con ditte italiane, insomma con l'Italia in genere. E poi abbiamo una grande fascia, una grande parte dei nostri alunni che invece sono persone che amano la cultura italiana e quindi studiano l'italiano per amore. Con la madrepatria non è facile lavorare, ma quest'anno l'immagine e la campagna di comunicazione della Festa do Cinema è stata curata da Fabrica, centro di comunicazione del gruppo Benetton. Poi è arrivato anche l'appoggio del MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, quello di Cinecittà Luce e della Lucana Film Commission, che ha incontrato la Lisboa Film Commission, con buone prospettive di collaborazioni future. La Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una Ma chi compone questa associazione Il Sorpasso? Chiediamo a Clelia Bettini. L'anima fondamentale e centrale di questo festival è Stefano Savio, che è il suo direttore, che ne è il direttore fino alla sua primissima edizione, che era una piccola mostra di pochi film. Che si è occupato sempre di cinema, ha studiato cinema e insomma quella è la sua area di specializzazione. E Adriano Smaldone, che si occupa di tutte le questioni più meramente tecniche di programmazione, quindi la scelta, la selezione dei film, ma anche tutta la cura dell'oggetto film, da farlo arrivare fino alla messa in sala. Ci sono io mi occupo soprattutto di traduzioni e contenuti culturali, cioè tutto quello che non è solo ed esclusivamente cinema, ma anche altre questioni culturali legate all'Italia. Annette Dugisin, che anche lei si occupa di questioni più legate al cinema e alla programmazione. Poi c'è un'equipe più portoghese che fa tutta la parte di produzione, comunicazione, ufficio stampa. Per un evento culturale alla portata come quelli del nostro festival, la cosa più importante è non smettere di esistere, ma non tornare indietro, perché fare un'edizione più piccola, ridotta, più misera, vorrebbe quasi significare per noi una condanna, perché il pubblico ne rimarrebbe deluso, si lamenterebbe, perderemmo credibilità in un certo senso. Ci vorranno tanto lavoro e tanta voglia di lavorare, che speriamo l'Italia sappia apprezzare sempre più. Settima. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.